Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 5 aprile 2015. E-learning, nuove prospettive per la conoscenza anche nel mondo agricolo. In tutto il mondo il grande sviluppo delle tecnologie mobili sta alimentando la crescita del e-learning. Come è previsto negli ultimi 5 anni, il settore dell'apprendimento a distanza per via digitale è passato da 18 a 25 miliardi di fatturato. In Europa occidentale la crescita è stata del 6%, del 24% in Europa orientale, del 30% in Asia, del 18% in Africa. Anche per il mondo agricolo, un po' ovunque l'accesso a programmi formativi si sta diffondendo. L'uso di smartphone e tablet abbinato all'alta velocità mobile garantita dalla rete LTE sta permettendo l'avvio di una formazione di alto livello anche in aree difficili da raggiungere. Fin qui la notizia del 5 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'e-learning è finalmente più accessibile grazie alla crescente digitalizzazione, ma serve anche un cambiamento del modello pedagogico. Donatella Persico, ricercatrice dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche ITD-CNR. Forse uno dei cambiamenti più importanti che si sta andando a determinare è proprio il fatto che attraverso le tecnologie abbiamo ormai accesso a una quantità di informazioni considerevole, anche organizzata in maniera abbastanza disomogenea e quindi non facile da gestire, non facile da comprendere, non è facile orientarci dentro. La quantità di informazioni a nostra disposizione è tale che è una battaglia persa in partenza a pretendere di memorizzarle tutte. La questione è di riuscire a saperle reperire quando ci servono, riuscire a identificare quelle che ci servono, riuscire a rielaborarle e diciamo in qualche modo sfruttarle per raggiungere i nostri obiettivi di apprendimento o di soluzione di problema sul lavoro. Il grosso lavoro che c'è da fare nei prossimi anni è riuscire a fare in modo attraverso la scuola ad abituare i cittadini a imparare a imparare, sfruttando le tecnologie, dominando in qualche modo il processo di apprendimento, non farsi dominare né dalle tecnologie, direi nemmeno da chi insegna, prendere il controllo, le redini del proprio modo di apprendere in qualche maniera. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.